Allora, buongiorno, spero che si senta, mi hanno detto di parlare forte, ma insomma le mie possibilità sono queste e quindi ci siamo detti con qualcuno che speriamo che chi non sente si sia messo vicino, perché insomma so che non sono molto potente come voce. Allora, sì, io sono un po' partita dalla provocazione del titolo con prospettive libere, no? Come avete lasciato ai relatori, e mi sono ritrovata a ragionare su questo incontro concependolo un po' come un puzzle, nel senso che invece di fare una lezione come normalmente faccio e come avevamo fatto 2 anni fa sulla Chiesa, no? Ho pensato che insomma, mi veniva più spontaneo, no, su un tema del genere raccogliere elementi che nell'esperienza, un po' dallo studio, cioè quello che della parola dice, la parola stessa, la Chiesa anche, no? Cioè, quindi quelle cose che si sanno sulla parola, però anche quello che negli anni, sono un po' più di 20 anni oramai che vado in giro con la parola di Dio in comunità, gruppi, anche comunità religiose, no? Così. Quindi in questa esperienza di, come dire, che consiste nel portare la parola, no? Così, nel condividerla, nel comunicarla, vedo che succedono delle cose. Cioè, oramai da tempo vedo che succedono delle cose, no? Allora, ho proprio visto come quello che si sa della parola, no? In teoria, e quello che succede con la parola, in pratica, in effetti, coincidono, no? E quindi, quello che vorrei fare stamattina con voi, no? Un po' condividere il frutto di queste due cose, no? Lo studio sulla parola, ma anche poi l'esperienza dell'incontro che la parola ha con le persone. E non so cosa riuscirò a fare, però insomma volevo iniziare così dicendo che è un po' il mio un contributo non troppo ragionato forse, ma che sento che parte proprio da quello che vedo accadere, ecco. E niente, sono 3 punti in modo particolare che, su cui vorrei appoggiare un po' la mia riflessione, no? L'inizio è questo, dunque, la parola ha davvero qualcosa da dire a noi oggi, questo è il punto, no? E che adesso mentre ne parlavate mi veniva anche un po' da sorridere, perché dico, ma come, cioè, che senso ha fare un ragionamento simile a persone che sono decenni che lavorano con la parola? Evidentemente voi lo sapete benissimo che ha senso, evidentemente, no? Però, che senso ha? Allora, io ho pensato di partire, per rispondere a una domanda del genere, a me viene da partire con l'inizio della parola, cioè il senso che la parola ha per le persone di oggi, di ieri, in fondo davvero di sempre. A me viene da cercarlo immediatamente nel modo in cui la parola inizia, tutta la Bibbia. Allora, voi sapete, la Bibbia inizia con la Genesi e la Genesi inizia con il racconto della creazione, 2 racconti della creazione, no? In principio Dio creò il cielo e la terra e 7 giorni di creazione, poi un secondo racconto in cui l'uomo viene fatto prima, poi è solo, allora dopo viene fatto anche più tutti gli animali, poi avete presente, no? Poi la donna. E poi c'è una sequenza di capitoli, di pagine, che raccontano cose un po' strane. Ecco, quello lì è l'inizio, no? Della Bibbia vera e proprio. E lì si parla della creazione, poi si parla quella che chiamiamo la caduta, no? Genesi 3, il frutto, Adamo, Eva, il giardino, il cespuglio, la cacciata, questo, no? Poi si parla dei figli di Adamo ed Eva, Caino e Abele, i primi fratelli, l'uccisione di Abele da parte di Caino. Poi c'è una parte ampia dedicata al diluvio, Noè, la storia di Noè. E poi un ultimo capitolo 11, dedicato al tentativo di queste prime genti di costruire una città e una torre, la Torre di Babele. Ecco, quello è l'inizio della Bibbia. Io penso che lì dentro ci sia già una delle principali ragioni per cui ha senso anche oggi incontrare la parola di Dio. Ora provo a spiegarmi perché. Perché innanzitutto queste pagine sono l'inizio della Bibbia, no? Ma sono scritte non all'inizio della storia del popolo di Israele, perché non sono le pagine più antiche della scrittura, no? La Bibbia non procede in ordine cronologico, non è che la prima pagina è la più antica, poi mano a mano che raggiungiamo l'ultima, l'Apocalisse, arriviamo alla fine, non è così, no? Già solo l'Antico Testamento è fatto di 73 libri, però non sono disposti in ordine cronologico, per cui questi primi capitoli non sono i più antichi, sono forse anzi tra le cose più recenti dell'Antico Testamento, perché sono il frutto di una lettura che il popolo di Israele, dopo secoli e secoli di cammino con Dio, ha fatto su se stesso, su quel cammino e sulla propria storia. Cioè queste prime pagine nascono in un momento molto particolare della storia del popolo di Israele, che è quello dell'esilio. Avete presente 587-538, esilio, deportazione a Babilonia. No? Quindi un enorme trauma per il popolo di Israele, per la propria storia. In quel contesto inizia, matura una riflessione profonda che poi prende forma in queste pagine, che non vengono inventate di sana pianta, cioè c'è già tutto un materiale che gira, sono racconti che già esistono, però è come se tutto venisse compaginato, no? Venisse strutturato, prende la sua forma e poi tra l'esilio e il dopo esilio prende la forma che noi conosciamo, il Pentateuco. I primi 5 libri della Bibbia, i primi 11 capitoli della Genesi, mi seguite? No? Questo per dire cosa? Lì dentro, secondo me, c'è già la prima della risposta alla nostra domanda, e il motivo per cui c'è è che sono il frutto di una riflessione molto matura, in realtà. Cioè, sono una lettura che il popolo di Israele fa dopo che già, insomma, c'ha una certa esperienza, no? Un po' come la differenza che io dico c'è tra il temino di un bambino di 7 anni che fa seconda elementare e incomincia a fare i pensierini e, si spera, il tema dell'esame di maturità di un liceale, si spera. Non è detto che sì, cioè, non è detto, però diciamo, insomma, dovrebbe, no? Dovrebbe essere il confronto, un conto il pensierino, un conto lo svolgimento argomentativo approfondito di un tema, no? Ecco. Allora, qui siamo di fronte al tema svolto, cioè, con tutti i sacri crismi dell'argomentazione, della riflessione, della profondità, no? Allora, lì c'è una grande ricchezza, che è la ricchezza dell'esperienza. E chi scrive questi capitoli, io dico sempre, cioè, è partito, certo, da materiale che esisteva, no? Cioè, questi racconti non sono nati in quel momento, c'era una tradizione orale, c'erano già delle cose scritte, va bene, ma soprattutto è partito dal guardarsi intorno. Cioè, chi ha composto quelle pagine lì, parlo di Genesi 1:11, creazione, caduta, fratricidio, diluvio, Torre di Babele, no? Che è, se ci pensate, un insieme di situazioni fallimentari, una peggio dell'altra. Cioè, a parte i primi due capitoli, dove va tutto veramente molto bene, iniziano una serie di disastri, uno dopo l'altro, no? Che cosa avevano in testa, no, questi qui che hanno scritto ste robe? Io dico sempre, avevano guardato il telegiornale. Avevano guardato il telegiornale. Che, cioè, all'epoca ci sarà stato qualcosa di simile. Comunque, questo guardarsi intorno, di che cosa succede, nel piccolo e nel grande, no? Il telegiornale sì, ma anche il condominio, ma anche l'ufficio, ma anche la famiglia, no? Cioè, quelle pagine nascono veramente da qualcuno che semplicemente si è guardato intorno e ha visto due cose. La prima la potrebbero vedere tutti semplicemente guardando il telegiornale, che è: ammazza se dura la vita, però. Perché, allora, la caduta, il racconto della caduta. Poi guardate, questi capitoli qui uno dopo l'altro sono semplicemente modi diversi di dire sempre la stessa cosa, ma è sempre la stessa cosa, e la stessa cosa è le dura, ecco. E dura a livello, no? Ecco, capitolo 3 della Genesi, caduta. In tutte le relazioni possibili che la persona umana, uomo o donna che sia, possa vivere, perché nel racconto della caduta il frutto, lasciamo perdere, ovviamente potremmo stare qua dentro 6 mesi, no? Però raccogliamo brevemente. Il problema, gli è raccontato il problema che l'uomo ha con Dio, innanzitutto. Perché avere un rapporto con Dio non è la cosa più semplice di questo mondo. E lì si racconta con un racconto, no? Lo si potrebbe fare con un trattato, ma sarebbe Aristotele. E invece è la Bibbia, e quindi si esprime narrando. E narrando dice uno che le persone tutte partono con una difficoltà profonda nei confronti di Dio, per cui quando Dio arriva tu istintivamente cerchi il primo cespuglio disponibile, come Adamo ed Eva hanno fatto, e si mettono al riparo, perché cosa vorrà mai? Cioè, ma vai a fidarti, no? Se sei giovane dici ancora vuole che divento prete o suora, e non è proprio il caso. Se sei, siccome anche abbiamo un concetto di Dio tutto falsato da idee nostre, c'è proprio il rischio di pensare che quando arriva chissà cosa porta, chissà cosa mi chiede, chissà cosa vuole da me, no? Che poi abbiamo costruito una spiritualità quasi millenaria su cosa vuole Dio da me. E già porsi nei confronti di Dio a partire da questa domanda ti porta a nasconderti, perché Dio è quello che vuole qualcosa da te e tu ne hai già da fare, perché c'hai figli con i loro nipoti e i genitori anziani, ci manca Dio, guarda, cioè, ne ho già, poi ho la roba da stirare, poi ho quello, cioè, ma ti pare che adesso... Quindi la prima difficoltà della vita umana è quella di relazionarsi con un Dio concepito come qualcuno che solo a pensarci cerchi un cespuglio, perché ti ci manca solo Dio, guarda, ecco. Poi però c'è la difficoltà dell'uomo con se stesso, della persona con se stesso, perché appena successo il patatrac, che nella narrazione è la raccolta di questo frutto, cioè succede qualcosa per cui si rompe un equilibrio, per cui tu non solo cerchi un cespuglio, ma anche la foglia di fico. Cioè, perché così come sei, non è proprio il caso di farti vedere in giro. Quindi c'è bisogno del vestitino, c'è bisogno, oggi, filosoficamente parlando, non parliamo di vestito, parliamo di maschera, no? Il soggetto è la maschera, battimo. Filosofia, non so se dico, cioè la maschera, cioè il bisogno di stare davanti agli altri non nudi, cioè nature, come siamo, ma coprendo qualcosa, perché proprio così come siamo non è il caso, nemmeno di fronte a noi stessi in fondo. E quindi un'altra relazione difficile, quella con noi stessi, che comporta, no, il potersi guardare, no, e il poter pensare che in fondo forse vado anche bene così, e invece l'istinto ti dice no, non vado bene così, no, mi devo presentare in modo presentabile. Seconda relazione difficile. Poi c'è una terza lì attaccata, quella tra l'uomo e la donna, tra Adamo ed Eva, no? Nella prima coppia, perché si vede subito il giochino che nasce tra i due, no? Appena succede il fattaccio e poi arriva Dio, la parola di Adamo è la donna, sì, ma mica io, cosa hai fatto? No, la donna che tu mi hai messo accanto, cioè tra l'altro, no? Cioè, uno è stata lei e lei me l'hai data a te, quindi fa un po' te, no? Però sostanzialmente è un non, no? Ma lì si rompe quella armonia, no? Quell'insieme, quell'essere l'uno per l'altro che nei primi due capitoli c'era, no? Usciti insieme dalle mani di Dio, questa volta è proprio ossa delle mie ossa, che bello che c'è lei, no? Cioè, si rompe questa cosa e lei diventa il problema e lui diventa un problema per lei, no? Perché poi da lì tutta una serie di cose che non erano originarie, ma che ci ritroviamo tra i piedi. Quindi una gerarchizzazione dei rapporti, no? Verso di lui sarà il tuo istinto, ma lui ti dominerà. Non è che proprio fosse nelle idee originarie di Dio, le idee originarie di Dio erano Genesi 1-2, insieme, no? Però ci si ritrova in un rapporto in cui è tutta da riconquistare questa, no? Questo essere davvero la costola, cioè al fianco, perché si è finiti sotto, e quello è un bel problema. E quindi ecco, no? Cioè, la fatica del rapporto dentro una coppia, e anche qui lo sappiamo benissimo che questo è vero, no? Quanto è difficile, quanto è faticoso far durare un rapporto. E poi c'è la fatica della relazione con l'altro, Caino che uccide Abele, il fratello, no? Cioè non l'altro, chissà, quello, cioè il fratello, quello più vicino, cioè il fatto che essere insieme nelle relazioni umane, dove il fratello è davvero il fratello, quello che è nato, ma è quello che ti abita sullo stesso pianerottolo, è quello che lavora con te in ufficio, anche lì, no? Cioè, e non è uno scherzo. Oggi molto il vescovo ci ha fatto lavorare quest'anno, no? Sulla fraternità, sapete. Non so se avete intercettato queste indicazioni diocesane che erano uscite, no, erano venute fuori dall'assemblea di giugno dell'anno scorso, avrebbero dovuto supportare il cammino della Chiesa di Torino in questo anno, e lui diceva la fraternità, la fraternità, la fraternità, la fraternità. La prima cosa che c'è da dire sulla fraternità è che è una bella rogna la fraternità, perché i primi fratelli sono Caino e Abele. E quindi, cioè, prima che sia... o come bello che i fratelli vivano insieme, eccetera, c'è il fatto che uno ammazza l'altro. La prima esperienza dell'altro, anche da coi bambini lo vediamo, i nostri figli, quando sono piccolini, la prima esperienza è la gelosia, è l'invidia, è il gautetiche passumi, non so, no? Cioè, e quindi la relazione difficile anche da questo punto di vista, mi seguite, no? La relazione con Dio, con se stessi, nella coppia, con l'altro, a prescindere, no? Che magari facciamo finta di chiamare fratello, in realtà è quello lì che se non ci fosse, ecco. E sarebbe meglio, perché intanto ci sarei solo io, non dovrei dividere quello e quell'altro, però... E poi prosegue, ecco, io mi ricordo quando studiavo, avevo i miei primi approcci con la Bibbia rispetto a questi capitoli, a quel punto incontravano la grande storia del diluvio, no? Ecco, va bene, c'è la fatica con... Mi rendo conto dopo 20-30 anni quanto questo oggi sia attuale, me ne rendo conto molto più adesso di anni fa, perché qui c'è tutta la questione con l'ambiente. No? Cioè il diluvio che inizia dicendo, che inizia con queste parole: tutta la terra era piena di violenza, perché quella violenza che è entrata nel mondo con il primo omicidio è come se dilagasse, no? Cioè si estende a macchia d'olio, e a quel punto riempie la terra. Nel momento in cui tutta la terra è piena di violenza, la terra, il cosmos, che era stato, come dire, ordinato, no? La creazione è un'opera di ordine, per cui questo sta in alto, questo sta in basso, quello sta a destra, quello sta a sinistra, quello sta dentro, quello sta fuori, c'è il giorno, la notte, tutto è messo in un posto preciso, boom, ritorna al caos. No, se la creazione era un andare dal caos al cosmos, il diluvio è il cosmos che ritorna a caos, per la violenza. La ragione è la violenza, c'è la ragione dell'uomo. Che vedete se non è questa roba qui attualissima. Non avevamo questa sensibilità 50 anni fa, però la Bibbia ce l'aveva. Cioè la consapevolezza che il modo in cui stiamo al mondo, come dire, influisce sul modo in cui poi il mondo, il creato, la natura, oggi appunto diciamo l'ambiente, risponde. No? Cioè, ecco, e noi abbiamo impiegato decenni, secoli ad acquisire questa consapevolezza, non l'abbiamo ancora acquisita, perché quando i giovani da qualche anno si sono messi a manifestare per l'ambiente, noi li abbiamo presi in giro, in realtà. Li abbiamo guardati storcendo il naso, chiamando Greta Gretina, no? Perché va ridicolizzata questa cosa. Ma questa cosa è biblica. Questa cosa è biblica, cioè la Bibbia la sapeva. E poi, se non bastasse, ancora c'è la torre, no? Cioè, a questo punto l'umanità, no? Cerca di, capitolo 11 della Genesi, di costruire una città e una torre. Perché noi siamo sempre abituati a pensare alla torre di Babele, il testo però parla una volta di torre, almeno due volte di città. Quindi la costruzione che si vuole fare non è soltanto quella di qualcosa che vada in alto, ma proprio anche di una città, una polis. E la città è il luogo della socialità, il luogo dove gli uomini vivono insieme, uomini, donne, persone, no? Si organizzano, no? Si dividono i compiti anche, no? Tu fai il pane, io lavoro il metallo, poi insieme. No? La città è la politica quella lì, è la polis, no? Quando ci si organizza. Ognuno ne fa un pezzo e tutti insieme siamo di più di quanto avremmo potuto fare da soli. Ma la torre crolla e loro smettono di costruire la città. E le lingue si dividono, avevano l'ambizione, no? Inizia così, tutta la terra aveva aveva le stesse parole, letteralmente dice, le stesse parole. Dicono tutti le stesse cose, che è la premessa, no, inevitabile di un fallimento sociale, politico, l'omologazione. Ma lì dentro ci sono tanti indizi che spiegano perché questa costruzione è fallita. Adesso raccogliamo solo questo: la fatica del vivere sociale e politico, no, della costruzione di una polis. Ci siamo? Lo vedete che il telegiornale, questa roba qua. Cioè, dall'omicidio, dal femminicidio, passando per il figlio che ammazza tutti, fratello, sorella, i problemi del lavoro, i problemi dell'ambiente, il tifone che è venuto in Vietnam, cioè, tutte le beghe di tutte le come si chiama, le amministrazioni politiche del paesino più piccolo di 2000 abitanti fino ad arrivare al governo in città, l'Unione Europea, cioè, c'è tutto qua dentro. Lo vedete? E quindi, prima risposta, a cosa serve? Cioè, ma la Bibbia ha qualcosa da dire oggi? Direi, inizia. Sì. Perché inizia proprio così, come una lettura della realtà, semplicemente. E quindi dentro ritroviamo la realtà, che poi alla fine è sempre un po' la stessa. Cambiano magari, no? Cioè, e quindi in quei primi 11 capitoli intanto c'è questo, no? Guardando la realtà viene fuori, uno, come dicevamo, che la realtà è problematica, che la vita è faticosa. Che tutte le dimensioni relazionali della vita umana sono belle, però sono faticose, no? Dico sempre, usando un'espressione che tiro fuori da quei primi capitoli lì, no? Quando Adamo ed Eva escono dal giardino. Ecco, la vita umana è una vita fuori dal giardino, cioè non è rose e fiori, semplicemente. Ecco. Quindi il primo apporto è quello, e dici, buona grazia, bastava appunto guardarsi intorno. Dentro a questa narrazione, però, a partire da questa prima considerazione che resta, no? Il punto su cui si appoggia, ce n'è una seconda. E questo è, come dire, no? Il tesoro che si trova però anche, perché se troviamo dentro solo le stesse cose del telegiornale, grazie, cioè, non ho bisogno di vedere come che la pensavano nel V secolo a.C., cioè. Il punto è che lì dentro però c'è anche un tesoro, perché la Bibbia funziona sempre così, no? In ogni pagina ci sono queste due cose, tutta la realtà, no? Tutta la terra che c'è, ma anche sempre il tesoro, che poi è un altro dei motivi per cui vale la pena leggerla, no? Cioè, perché poi è quello che ti permette di trovare i tesori anche nelle cose che vivi, no? E qual è il tesoro che c'è nascosto in quelle pagine lì? Ce ne sono almeno due. cioè veramente ce ne sono tanti, ne tiro fuori due. E il primo è il vedere che vedete tutte quelle cose che abbiamo detto essere problematiche, faticose, difficili da telegiornale, iniziano nel capitolo 3. Perché la caduta è Genesi 3. Genesi 1, 2, non c'è una sola cosa che vada male. Anzi, ciò che viene più e più volte ripetuto è proprio il concetto di bene, no? E vide che ogni cosa era buona, tov in ebraico, che vuol dire contemporaneamente sia bene che bello. All'inizio va tutto proprio bene, all'inizio è bello. E come dico sempre, quando non si dice che è bello, c'è un giorno in cui non viene fuori che è bello, perché in realtà è molto bello. E vide il sesto giorno, il Signore quando si guarda intorno riconosce che quella cosa che aveva fatto non era bella, era molto bella. È il giorno in cui l'uomo e la donna vengono creati. Quindi se le cose non vanno bene all'inizio è perché vanno benissimo. E a conoscere la Bibbia si vede anche che questa cosa, che all'inizio non c'è il male, no? È fa pandan con la fine, perché negli ultimi due capitoli dell'Apocalisse succede la stessa identica cosa. Avete presente l'Apocalisse? Cioè l'Apocalisse, appunto, no? Una serie di eventi, uno dentro l'altro, uno apparentemente peggio dell'altro, no? Ma l'Apocalisse è solo una grande lettura della storia, è un altro modo di raccontare il telegiornale, tutto lì, no? E poi c'è la fine, Gerusalemme celeste che scende dal cielo, che viene descritta, no, in tutti i suoi particolari, bellissima, bellissima, bellissima, una città semplicemente meravigliosa e bellissima dove non c'è il mare, perché il mare nella Bibbia è il simbolo del male, semplicemente. E quindi all'inizio Genesi 1-2, alla fine Apocalisse 20-22, di fatto 21-22, si ritrovano in questa assenza del male. Quindi tutto quello che ha reso estremamente, diciamo almeno impegnativo, il vivere umano da Genesi 3 fino a qua, ecco, cioè praticamente tutto questo è quello che sappiamo, no? Però all'inizio e alla fine no. Il che vuol dire che la prima e l'ultima parola è... Allora, questo è il dono, come dire, uno, la vita è dura, ma quello che la rende dura, faticosa, difficile, a tratti dolorosissima, non ha né la prima né l'ultima parola. E questo il telegiornale però non lo dice. E quindi questo è già un motivo per cui, a cosa serve, no, la Bibbia? Per stare dentro alla realtà, cogliendo però, sapendo questa cosa, che se la sai un po' cambia, eh? Un po' cambia. La seconda cosa che si vede, la si vede dentro a tutti quei capitoli dove c'erano delle cose che non andavano bene, no? Allora, si è notato come in ognuna di queste narrazioni il finale ha un tratto in cui si vede che non sei dentro un vicolo cieco, ma ad una strada che comunque continua. Per cui è vero, l'uomo e la donna in Genesi 3 devono uscire dal giardino, ma prima che escano il Signore è lì che si mette a fare l'uncinetto, i ferri, la calza e tutto, e gli prepara su un bel vestitino, perché andare in giro con la foglia di fico anche no, perché la vita è dura e la foglia di fico non ti basta. E allora li manda in giro attrezzati, non so se avete presente, prepara un vestito di pelli, cioè un qualcosa, e lì si vedono due cose, no? Il fatto che, no, una fondamentalmente, che è vero che sei fuori dal giardino, ma te ne vai in giro custodito, e il Signore stesso, no, prepara il golfino, ecco, come la mamma che dice, no, fa freddo, metti il golfino. Ecco, cioè c'è la caduta, ma il Signore E intanto si incomincia a vedere che il Signore forse non è quello lì che viene a chiederci qualcosa, è quello che, siccome fa freddo, ti prepara il golfino, che è un'altra immagine di Dio. Poi c'è, famosissimo, cioè Caino che uccide Abele, però nessuno tocchi Caino, vi ricordate? Il Signore che fa questo segno, mi è venuto, scusate, mi è venuto automaticamente da fare, no, il segno, gli fa un segno, chissà perché mi è venuto da fare, non so che segno fosse, no, però è il segno di Caino, cioè nessuno, perché Caino ha paura adesso andare in giro, no? È uscito da lui qualcosa di talmente terribile che lui stesso ne ha paura. Come faccio a stare al mondo in questo modo, sapendo che si può odiare fino al punto di uccidere? Eppure è uscita da lui questa cosa. Ma adesso sa che il primo a morire potrebbe essere lui, allora nessuno lo tocchi. E anche Caino se ne va in giro custodito. E anche questo è un dono, però, che vuol dire che è vero che c'è violenza e magari tu non sei manco quello che la subisce, ma sei la bestia. Cioè sei quello difficile della situazione, ma pure tu te ne vai in giro col golfino. E poi il diluvio che si chiude con l'arcobaleno, no? Che è il segno del Signore che depone, no? Proprio depone l'arco, cioè depone le armi con l'umanità e si impegna ad una pace duratura, cioè fare l'arco vuol dire, cioè, da parte mia tu non avrai mai una guerra. Cioè quello è il Signore che si impegna con tutta l'umanità, con tutta la creazione ad avere davanti Dio che ti dice stai tranquillo, parole di Isaia, se ci sarà un attacco non sarà da parte mia. E anche questo è un dono, eh. L'unica storia che sembra non avere la sua via di uscita bella, sembra piccolina, la devi un po' cercare, ma capite che c'è, no? L'unica storia che è quella di Babele, perché si chiude semplicemente con la confusione delle lingue, sembra che non abbia il suo corrispettivo positivo, no? Cioè la sua parola, il piccolo tesoro che dice, ah vabbè, però non tutto è finito, no? Cioè per quanto possa andare male, c'è ancora strada, c'è ancora possibilità, c'è cammino. Però gli esperti dicono è già che non c'è, perché tutta la storia successiva è il modo in cui Dio risponde a quel fallimento, che non è soltanto il fallimento della città e della torre, ma il fallimento di tutti quei primi capitoli. È il modo in cui Dio risponde al telegiornale. E il modo è Genesi 12, la chiamata di Abramo, l'inizio di una storia che può essere radicalmente diversa. Mi seguite? Quindi anche quell'epilogo di quei primi 11 capitoli, perché infatti Genesi 12, Dio che dice ad Abramo di uscire, è preparato dagli ultimi versetti dei capitoli, del capitolo 11, quando già si incomincia a parlare di Abramo, della sua famiglia, di chi è figlio, di quali sono i suoi fratelli, no? Cioè inizia ad essere preparato. Quindi c'è già, è lì la risposta, e la risposta è in quella storia nuova che incomincia con Abramo. È il secondo grande inizio della Bibbia. Il primo è la creazione, il secondo è Dio disse ad Abramo. E inizia una cosa diversa, e lo si vede nella mi permetto di, conoscete la storia di Abramo, no? E poi di Isacco si dice poco, ma c'è un secondo grande ciclo narrativo che è quello di Giacobbe, figlio di Isacco, e poi un terzo grande ciclo narrativo che conclude poi la Genesi, che è quello di Giuseppe, che è uno dei figli di Giacobbe. No? Allora, la Genesi prosegue con Abramo, sostanzialmente, Giacobbe e Giuseppe. Se voi guardate, sono tutte storie, quella di Abramo si vede un po' meno, ma anche lì, perché ha il nipote, che è uno con cui a un certo punto potrebbe arrivare allo scontro, no? E invece finisce bene. E poi la storia di Giacobbe è evidentissima, tutto nasce da una lotta col fratello, Esaù. E la storia di Giuseppe è peggio ancora, no? Cioè, sono storie di fraternità, capite, di relazioni, che arrivano a un passo dall'essere come quella di Caino e Abele, ma tutte finiscono in un abbraccio. Abramo ce la fa a continuare a custodire Lot, Giacobbe, un pezzo bellissimo dove Giacobbe ed Esaù si abbracciano alla fine, e non parliamo di Giuseppe e suoi fratelli, no? Sapete la storia. E da subito che si vede che la storia è diversa, pur restando realistica, cioè pur restando nella realtà. La realtà è che si arriva a un passo dal farsi fuori di nuovo, perché comunque essere fratelli resta sempre una bella sfida. Ma è possibile finirla in modo diverso, è possibile non finire sul telegiornale, è possibile camminare in modo diverso proprio nella vita di tutti i giorni. Mi spiego? Allora, questo inizio ci dice a cosa serve, serve perché lì dentro c'è la realtà, in tutta la sua fatica, però anche, no, con questa, no, con questa prospettiva diversa. Come dire, è vero che la realtà è faticosa, ma non è un vicolo cieco, non è un tunnel senza uscita, no? La prima e l'ultima parola sono diverse, e per quanto possano andare male le cose, comunque c'è, comunque sei custodito, comunque c'è possibilità di un cammino diverso. Mi spiego? Ci siete? Possiamo fare allora il passo? E quindi questo è il primo motivo, vale la pena? Boh, a me sembra di sì. Cioè, ecco. Secondo motivo, lo recupero da questo doppio inizio della Genesi, no? Il primo inizio la creazione, il secondo inizio Abramo. Se voi guardate, sono due inizi che fanno vedere la stessa cosa, appoggiano tutti e due sulla stessa cosa. Nella creazione ogni cosa che viene creata perché Dio disse sia la luce, la luce fu. Dio disse appaia l'asciutto, e così avvenne. Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, e così avvenne. Cioè ogni cosa accade, no? E arriva ad essere perché Dio ha detto, perché Dio ha parlato. La storia di Abramo inizia non con esci dalla tua terra, vai verso dalla tua padre, la casa di tuo padre, vai verso il paese che ti indicano. Non è quello l'inizio. L'inizio è Dio disse ad Abramo, esci dalla tua terra, eccetera, eccetera. Cioè l'inizio per Abramo è lo stesso della creazione. Dio disse. Mi seguite? Allora, in entrambi i casi Dio dice, Dio parla. E questa è la ragione fondamentale per cui chiamiamo questa cosa parola di Dio, non solo Bibbia, no? Bibbia fa riferimento al fatto che, sapete, Bibbia semplicemente in greco vuol dire biblioteca. Scusate, prima ho detto uno svarione, ho detto Antico Testamento 73 libri, Antico Testamento 46 libri, più i 27 del Nuovo che fanno 73. 73 sono i libri della Bibbia, che è il motivo per cui si chiama Bibbia, Biblia, no? Cioè plurale di Biblion. Allora, Bibbia vuol dire semplicemente che qui dentro c'è un'intera biblioteca, ci sono 73 libri, ecco. È uno dei modi con cui chiamiamo questo libro, ma il modo teologicamente più forte, più vero, più pregnante, più consistente è parola di Dio. Tant'è vero che quando la leggiamo nella liturgia non è che diciamo è la Bibbia, diciamo parola di Dio. E che parola di Dio è fondatissimo, perché vedete che si appoggia lì, inizia, e inizio vuol dire nella Bibbia arché, bereshit, non è soltanto, come dire, la prima di una, cioè c'è la prima cosa, poi c'è la seconda, poi c'è la terza, no, inizio nel senso di arché, fondamento, principio, che poi regge tutto il resto, ok? L'arché della Bibbia è, quindi il fondamento, ciò che regge tutto, è il fatto che Dio parla. E la parola, il fatto che lui parli, tiene su, sostiene, fa consistere tutto il resto. E infatti la chiamiamo parola di Dio. E questo però ci permette di dire il secondo grande motivo per cui vale veramente la pena. E allora vedete, scusate, vi dicevo, queste cose non sono solo cose teologiche. Io vi sto dicendo in soldoni, cioè con parole mie, quello che diceva dei Verbum. Cioè se voi volete le cose dette bene dal punto di vista del linguaggio della Chiesa, magari pure in latino, leggetela dei Verbum, Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, stanno lì, che è il punto di arrivo di una riflessione teologica sulla parola di Dio che inizia nel tempo della patristica. Quindi sto dicendo cose che sono la sapienza bimillenaria della Chiesa sulla parola, però le dico a modo mio, ecco, tutto lì. Però sono anche le cose che vi dicevo, scopro parlando con la gente, che sono quelle che fanno sì che quando la gente le capisce funziona l'incontro con la parola. Allora uno dei motivi per cui funziona è perché la gente ci ritrova dentro le cose che vive, e per forza, perché quelle cose di cui abbiamo parlato sono le cose che viviamo tutti i giorni, no? Tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso. E poi ecco, c'è la seconda cosa che adesso sto introducendo e che vedo che è anche quella che effettivamente, quando la gente sente questo, gli arriva, si sblocca. Ed è legato al fatto che questa è la parola di Dio, che tutto si regge sulla parola di Dio. Che cosa vuol dire questo? Che Dio parla. Che Dio parla. Cioè, che Lui è non quello che viene a chiederti qualcosa. Intanto è quello che ti fa il golfino, ma poi è quello che ti parla. Avete presente quel bellissimo versetto del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù e la Samaritana, quella donna, no, al pozzo iniziano tutto, ma parlano. E il dialogo arriva al suo punto culminante quando lei, no, che ha capito, cioè dopo un bel po' che stanno lì, ha capito chi ha davanti e dice sappiamo che deve venire il Messia, e lui le risponde: sono io che ti parlo, sono io che ti parlo. Però in greco la frase è messa in modo tale che quel sono io in greco è egoi, ego eimi, cioè io sono, non sono io. Sono io è tipo quando al citofono arrivi a casa, chi è? Sono io, vabbè, ok, cioè, sono io da citofono. Io sono invece è, cioè è quella, è il nome di Dio, vi ricordate quello che Dio dice a Mosè? Ma com'è che ti chiami? Sì, devo andare in Egitto, ma insomma andiamoci piano, tu esattamente chi sei? Qual è il tuo nome? Io sono, io sono, ego eimi, è il nome di Dio, no? E quindi è già una roba potentissima che lui sta dicendo a lei. E, però, e non solo, dobbiamo aspettare il Messia, sono io, no? Io sono. C'è un momento di rivelazione, ma io sono chi? Chi è sto Messia? Chi è? Io sono che parlo con te. Io sono quello che parla con te. Io sono quello che ti parla. Dire che questa è parola di Dio, dire che tutto appoggia, no, consiste sull'archè che è Dio disse, cioè che Dio parla, vuol dire fare questa esperienza qua, cioè di Dio come qualcuno che parla con me. E questo, uno, ci dice qualcosa di Dio, intanto ci libera da quell'idea falsa di Dio che abbiamo detto abbiamo e che ci fa istintivamente cercare il primo cespuglio disponibile, chiuderci lì e non volerci avere mai più niente a che fare, e che è l'idea che lui voglia qualcosa, per cui il mio rapporto con Dio sarà segnato da uno sforzo, perché se lui vuole qualcosa e lui è Dio, devo pure farla, perché figurati, e sarà chissà cosa, e quindi segnata dallo sforzo. E invece ti libera da questo, non devi fare lo sforzo, cioè non devi fare niente, cioè non è lui che fa al massimo, no? Ma liberarsi da questa cosa per capire chi è lui veramente. Lui è quello che, cioè, a lui piace sta roba qui, parlare con te, stare con te. Però questo dice anche chi sei tu. Io sono quello a cui il Signore piace parlare. Io sono qualcuno con cui è bello parlare. Io sono qualcuno a cui vale la pena parlare. Cioè, io sono un interlocutore. Io sono importante. Io sono prezioso. Perché io sono qualcuno a cui vale la pena rivolgere la parola. Questo dice di me chi sono io. Mi spiego. Si capisce questa cosa? Guardate, questa cosa quando la gente gli arriva, questo cambia, perché ti cambia la percezione che le persone hanno di se stesse, perché improvvisamente, dall'oggi al domani, dalla sera alla mattina, iniziano ad appoggiare se stesse su qualcosa di talmente solido che non c'è più storia, ce la può avere con te il capo ufficio, il vicino di casa, il marito, i figli, tuo fratello da quando eri piccolo, eccetera. Ma tu sei prima di tutto quello con cui il Signore parla. Cioè tu non chi sei tu non dipende più da quello che gli altri ti rimandano, dal modo in cui gli altri ti guardano, perché magari ti guardano storto. A volte ci guardano storti anche solo perché si sono, cioè, c'hanno, non è che necessariamente ce l'hanno con te. Può darsi che, cioè, uno c'ha la sua storia, per cui arriva, quando trova te, ti guarda storto perché gli ricordi la madre, la nonna, la bisnonna, cioè che ne so, cioè, ognuno c'ha i motivi suoi, no? Però quando la nostra vita dipende da come siamo per gli altri, che è importantissimo, però siamo costantemente a rischio caduta, perché basta che l'altro ti sottragga lo sguardo, ti sottragga la parola, ti sottragga il saluto, ti sottragga, cioè, e tu, cioè, è dolorosissima questa roba. Ma se fai esperienza del Signore che parla con te, quello non te lo toglie più nessuno, perché il Signore quello sguardo, quella parola non le revoca mai, mai, mai. È uno sguardo che non viene mai revocato, è una parola che non viene mai tirata indietro. Non ci sarà mai un giorno in cui ti fa il muso. Cioè, adesso non posso entrare nel dettaglio, però si vede in un sacco di volte, no? Ricordate quando Pietro, perché i discepoli, per esempio, con Gesù, di figuracce ne fanno tante, tante, no? Ci sono tanti momenti in cui non capiscono una fava. Non solo non capiscono, ma dicono cose talmente sbagliate che a un certo punto il Signore dice vade retro, se vi ricordate quando Pietro, no, questa cosa non la devi dire, no? E però quel vade retro con Pietro non è il allontanati, ma vai dietro, che è la posizione del discepolo, che era quella con cui all'inizio lo aveva chiamato, seguimi, mettiti dietro. Cioè non è che nel momento in cui Pietro sbaglia, Pietro allontanato, Pietro viene semplicemente riposizionato, no? Nella stessa posizione in cui era quando è stato chiamato, cioè quel vade retro è una nuova chiamata, è una conferma della chiamata. Semplicemente Pietro ha sbagliato la posizione. Pietro ascolta, dove si va, dove non si va, lo so io, se permetti, no? Quindi adesso io so che devo andare a Gerusalemme, non metterti in mezzo rispetto a questa cosa, seguimi, la so io la strada. Però capito, Pietro e chi con lui, tutti i discepoli del mondo, possono sbagliare tanto, ma il Signore non revoca lo sguardo, non toglie la parola. Mi spiego? Allora, e la nostra domanda, a cosa serve questa benedetta parola nel giorno di oggi? Serve a consistere, serve, no? Cioè, questo cambia la vita della gente, come ha cambiato la vita della Samaritana, Perché quando è poi tornata nel villaggio, quel villaggio da cui era uscita, non voleva vedere nessuno a mezzogiorno, cioè che non si va a prendere l'acqua a mezzogiorno, un pozzo, cioè con la caldo che fa, se esce a quell'ora lì era perché proprio non voleva incontrare nessuno sta donna. Gesù La incontra, lei si fa incontrare, si fanno tutta la loro bella chiacchierata, poi lei va e torna nel villaggio a dire a tutti, per dire che da così a così lei, dopo aver trovato lui. E quello che va a dire a tutti è: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che ha parlato con me e che parlando con me mi ha fatto vedere come mi abbia sempre vista fondamentalmente. Hai avuto 5 mariti, quello di adesso non è il tuo, cioè ha visto tutta la sofferenza di tutta la mia vita, cioè io so che sono vista e lui parla con me. Ed è quello che lei ha da dire alla gente, è quello che la cambia. Boh, guardate, vi assicuro, questo cambia la gente, questo cambia le persone. Sentire che la tua vita è vista, conosciuta, riconosciuta e che il Signore parla con te. Non so se avete presente quel film di Almodóvar, Parla con lei. Ora Almodóvar può piacere o non piacere, io non ho ancora capito dopo anni se mi piace o non mi piace, perché è talmente strambo che va bene, però cioè, nella sua narrazione così forzata, no, così tirata veramente, dice delle cose potentissime. In quel film la cosa potente è che due donne in coma irreversibile per motivi diversi sono nella stessa identica situazione, una si salva e l'altra no. Quella che si salva è quella che ha avuto qualcuno che tutto il tempo ha parlato con lei. Parla con lei? Parla con lei. Si salvano? Mentre l'altra, e i due che sono, cioè due persone che amano, no? Le loro donne che sono lì, però uno non riesce a starci e l'altro, che non avrebbe manco nessun titolo, no? Per stare lì, però sta lì e ha cura, no? E le parla e lo dice l'altro, ma parla con lei, ma l'altro non ce la fa e l'altra muore. Boh, non è scientifica sta cosa, non penso che sia matematica questa roba, però è esistenziale, cioè questa è una verità esistenziale. Tu sei vivo, tu esisti se qualcuno parla con te, se no muori. Perché se no non esisti. Allora, il Signore parla con noi. Terza e ultima cosa è il modo, no? Cioè quello che a me piace della Bibbia e che vedo che anche questo funziona tanto e che vedete quanta roba c'è qua dentro, no? E che dicevamo prima, da Abramo all'Apocalisse, cioè, ecco, la storia, cioè, c'è tutta questa cosa qua, no? Ed è un, cioè, tutte queste pagine, tutta questa storia che si mette in moto a partire da Abramo è qualche cosa di lungo. E la storia di Abramo e di Giacobbe non identificano lo stesso punto del cammino che viene raccontato nel Vangelo quando per esempio Gesù pronuncia il discorso della montagna. Sono proprio due punti diversi del cammino, che è la bellezza della Bibbia, no? Per cui più vai avanti più si scoprono cose proprio, no? Cioè è un percorso in cui l'inizio è grezzo, l'inizio è fatto di persone che ancora comunque si ammazzano a vicenda, in cui occhio per occhio, dente per dente è intanto un argine, cioè è un passo avanti rispetto al canto di Lamech, cioè quella roba che c'è nel capitolo 4 della Genesi, in cui questo discendente di Caino torna a casa e dice alle mogli, due che ne ha, ho ucciso un uomo per una scalfitura, per un livido, un ragazzo per una scalfitura. Cioè quest'uomo arriva a casa e si vanta con le mogli che qualcuno gli ha scheggiato la macchina e lui l'ha fatto fuori, perché ho ucciso qualcuno perché mi ha fatto un livido, vuol dire questo, no? E un ragazzo, la traduzione è un ragazzo, in realtà in ebraico è yeled, vuol dire un bambino. Cioè vuol dire che chiunque, anche fragilissimo, mi può dire quella roba che mi fa girare l'embolo, io lo faccio fuori. La logica è quella, si parte di lì. Poi poco per volta la legge del taglione, no, un attimo, occhio per occhio, dente per dente, cioè se ti cava un occhio tu non lo fai fuori, se ti fa un livido gli puoi fare un livido, ma non è che lo ammazzi. E poi si va avanti, si va avanti, si va avanti, arrivi al discorso della montagna in cui se qualcuno ti ha dato uno schiaffo tu gli porgi l'altra guancia. Ma il bello della Bibbia è che non inizi porgendo l'altra guancia, inizi dal parcheggio con non fare fuori quello che ti ha legato la macchina. Perché noi non partiamo dal discorso della montagna, noi partiamo dall'istinto di reagire, no? Al livido. Allora la bellezza di questo cammino è che è un cammino lungo. Un cammino lungo, estremamente realistico, in cui si parte da dove sei. Se siamo al livello del parcheggio e del canto di Lamech, possiamo partire dal canto di Lamech. Molto, ho ucciso un uomo per un livido, eccetera, no? Molto gradatamente arriverci con tutta questa roba qui. È previsto, capite? È previsto che non siamo santi dalla sera alla mattina. È previsto che porgi l'altra guancia, magari non ci viene. Per fortuna c'è il canto di Lamech. E prendendoci per mano lì da dove siamo, poco per volta arriveremo alla capacità del discorso della montagna. Ecco, la parola di Dio ha la sapienza della gradualità, no, la sapienza del cammino lungo, non ideale, ma reale, parla alle persone reali. E dice sempre due cose, fondamentalmente, come abbiamo visto. Chi è Dio e chi è l'uomo? Chi sei tu e chi è lui? Tu sei quello che può fare qualunque cosa, però non sarai mai in un vicolo cieco. E lui è quello che parla con te. E l'altra cosa importante è che parlando con te, la parola di Dio non è soltanto un darci delle informazioni, per cui veniamo a sapere che dobbiamo porgere l'altra guancia. O che eventualmente possiamo cavare l'occhio se l'altro mi ha cavato l'occhio. Non è questa, no, il motivo per cui Dio ci dice delle cose. Perché se fosse così sarebbe ancora pesante, sarebbe ancora quello lì che arriva, no, a dirci e io c'ho già alto così di roba da stirare, se permetti, devo anche porgere l'altra guancia. E invece te le dice le cose perché la caratteristica della parola sua è che è una parola diversa dalla nostra. La nostra è parola e basta, mentre la parola di Dio è sempre due cose insieme, dice la teologia della parola, ma lo si vede proprio a partire dalla Bibbia, è sempre contemporaneamente parola e fatto. Parola e fatto. Dio disse sia la luce e la luce fu. La parola di Dio pone in essere la realtà. La parola di Dio, Dio disse ad Abramo, Abramo partì. Cioè la parola di Dio mette in moto la realtà, agisce. Noi no, cioè noi non abbiamo questa prerogativa, noi possiamo dire quello che ci pare, ma poi possiamo anche non farlo, per dire, no? E certamente non è dicendo si accenda la luce che, cioè, beh, con Alexa adesso un po', capite che ci sono dei passaggi in mezzo, no? Cioè non è la parola, è l'elettronica, l'informatica, l'intelligenza, le onde, cioè c'è la spiegazione fisico, ma che cacchio, io non lo so come funzioni, però c'è un funzionamento, no? Una volta passare, mi devo alzare a accendere l'interruttore, ma anche Alexa ha il suo funzionamento. È diverso, no? Cioè la nostra parola, o comunque posso promettere una cosa e non mantenerla. Invece quello che Dio dice, Dio fa. Cioè la parola di Dio è intrinsecamente, costitutivamente azione, è potente, fa essere. Quindi il fatto che Lui ci parli non è solo un farci sapere le cose, è un qualcosa che entra dentro a noi e rende possibile quello che ci sta dicendo. Quindi alla fine riesci pure a porgere l'altra guancia, perché quella parola, abitandoti dentro, ti mette in moto. Cioè agisce realmente. E questo è un altro dei motivi per cui vale la pena, no? Perché capite, è parola in modo, cioè proprio tecnico, si direbbe performativa. Cioè non è soltanto informativa, non è indicativa, non dice quello che devi fare. Cioè, te lo fa fare. Ecco, questo è un po' quello che volevo dirvi. Vorrei concludere con una parola che per me è stata... Quando penso al mio rapporto con la parola, no? Il modo in cui ho iniziato, io penso a questa parola qui, che è di Geremia, e che non ho incontrato subito. Geremia, capitolo 15, versetto 16, me la sono scritta anche all'inizio della Bibbia, prima pagina della Bibbia ho scritto questa roba qui, perché quando l'ho trovata ho detto, ecco, cioè, è quello che mi è successo. Io non ho una storia di frequentazione della chiesa, della parrocchia da sempre, cioè ci sono arrivata a 19 anni, non avevo mai manco fatto il catechismo, però avevo letto il Vangelo da bambina, quindi qualcosa era successo, no? Però quando poi da ragazza più grande ho incontrato la parola, perché qualcuno me l'ha fatta assaggiare, no? In me è successo qualche cosa che poi quando ho letto questo versetto di Geremia ho detto ecco quello, ecco, che dice Geremia? Dice, quando le tue parole mi vennero incontro le divorai con avidità, la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore perché il tuo nome è invocato su di me, Signore degli eserciti. L'avete mai sentita questa parola? È l'esperienza di Geremia, che Geremia ha fatto con la parola. Io dico, guardate questo, cioè, vi volevo lasciare questa, no? Quando le tue parole mi vennero incontro, è già una bella cosa, però non è letterale. Letteralmente sarebbe quando le tue parole si sono fatte trovare. Che è bello, perché vuol dire che la parola si fa trovare. Se la vuoi, la cerchi, non è difficile, non è qualcosa di impossibile, si fa trovare. Le divorai con avidità, le mangiai letteralmente, me le sono mangiate. La parola è da mangiare, nel senso che la parola nutre. La parola nutre. Quando lo capisci, se l'incontro con la parola c'è stato, quando la vita è nutrita, quando hai la pancia piena. Capite questa cosa? Così come la gioia e la letizia del mio cuore sono criteri oggettivi, oggettivi, non è nevrosi, non è qualcosa che ti inventi, non è qualcosa di cui ti convinci, perché tu puoi anche guardare il pranzo di Babette, però dopo devi proprio mangiare anche tu, capisci? Cioè non funziona che guardi gli altri mangiare o leggi il menù e ti sei saziato. Cioè, proprio ti devi fare un pranzo. Allora, cioè, o la pancia ce l'hai piena, oppure no, non è nevrosi. Non ti riempi la pancia con l'idea del mangiare. O hai mangiato, o non hai mangiato. E la parola è da mangiare. Quindi se è avvenuto, se è entrata, te ne accorgi, perché c'è la pancia piena, la vita è nutrita. I discepoli di Emmaus direbbero, ardeva il cuore nel petto. Cioè, quello che c'è dentro di te, nella parte più profonda di te, boom, si è messo in moto e tu sei partito. Cioè, è oggettivo il criterio, no? Perché il tuo nome è invocato, è chiamato su di me, è pronunciato su di me, dice Geremia, questo mi piace tantissimo. Perché funziona sta roba? Perché funziona sempre? Cioè, guardate, l'incontro con la parola funziona sempre. Io davvero sono ben più... allora, ho iniziato a fare gli incontri biblici nel 99. Credo che fosse il gennaio del 99. Quindi sono un po' di anni. 25. Quanti sono? 25. Ah, 25. Faccio le nozze d'argento. con la parola di Dio, no? Allora, c'è 25 anni che la vedo sta cosa, funziona sempre, mentre facciamo i progetti pastorali, cioè io in 25 anni ho visto cambiare catechismo dei bambini 3 o 4 volte e si faceva il tradizionale. Poi si faceva l'Emmaus, poi si fa ripassato il tradizionale, poi la catechesi biblico-simbolica, poi il Tobia, non so se vi dicono niente queste robe qui per chi fa catechesi. Cioè, lo puoi prendere, girare, lo cambi, cosa ci facciamo venire in mente, non sai mai se funziona. La parola di Dio funziona sempre, sempre e con tutti, cioè, io vi assicuro, cioè, tu puoi parlare a gente che non l'ha mai sentita o che ci ha costruito sopra un'intera esistenza, cioè se tu porti la parola, va sempre bene. Perché? C'è un motivo. Perché il tuo nome è invocato su di me. Che significa? Perché siamo fatti l'uno per l'altro. Cioè perché noi ce la portiamo addosso. Cioè questa cosa è come il segno su Caino, ce l'abbiamo dentro. Quindi quando la incontri, semplicemente la riconosci. Io ricordo la prima volta che ho sentito, cioè questa cosa che mi veniva detta così, mi sono accorta che l'ho riconosciuta, ho detto io voglio questo, cioè questo è quello che ho dentro, questo è quello che è, perché il tuo nome è invocato su di me, cioè perché ce l'abbiamo, portiamo questo nome suo dentro di noi, per cui siamo fatti l'uno per l'altro, che forse è un'ultima cosa che risponde alla nostra domanda, perché? Perché siamo fatti per questo. Ecco, basta, non vi dico più nessun altro motivo. Penso che... Ok.